Siamo al telefono con Enrico, responsabile della Prima Estate, questo festival che si tiene al Lido di Camaiore. Ciao Enrico, intanto come stai? Ciao, molto bene, grazie dell'invito. Il festival è alle porte, com'è l'atmosfera che si respira? Ma è sempre molto bella, intanto perché appunto in Versilia appena si avvicina l'estate l'atmosfera è bella di per sé, no? L'estate arriva molto prima qui e quindi abbiamo già un clima da molto balneare, diciamo. A questo da 4 anni a questa parte si aggiunge anche l'arrivo della prima estate di questo festival, che porta in Versilia i grandi nomi dell'indie alternative internazionale e anche oltre. Quindi niente, siamo in piena fase di preparativi, stiamo allestendo il parco Bussola Domani, è un parco bellissimo, a 2 passi veri dal mare, e pronti a accogliere artisti e spettatori soprattutto. Ecco, il festival si tiene 2 weekend lunghi, 20, 21, 22 e 27, 28, 29 giugno. Vuoi farci un pochino una carrellata dei nomi che ci saranno, perché ci sono anche nomi internazionali molto importanti? Guarda, quest'anno sono due weekend molto diversi tra loro. Allora, il primo è un weekend molto coerente che incontra i gusti del pubblico più indie alternative, un pochino più rock anche. La prima sera avremo un trio fantastico, perché avremo Mogwai, Spiritualize e Yard Act. Il sabato R e San Vincent insieme ai Calibro 35, mentre l'ultima sera purtroppo dovevamo avere Kings of Leon come headliner, purtroppo Kings of Leon hanno cancellato tutto il loro tour a seguito di un infortunio del cantante, però rimaniamo in buone mani perché avremo i TV on the Radio, Nick Chester, la voce dei Jet, e i Ramona Flowers, che sono un gruppo molto interessante che si sta facendo spazio nel mercato UK. Il secondo weekend è tutta un'altra musica, perché siamo più dalle parti della dance, clubbing, soprattutto nella prima serata, il venerdì, che abbiamo chiamato Club Friday, con 3 DJ molto importanti per il mondo house. Inizierà Mario Scalambrin, poi la palla passerà a Pantrago dall'Olanda e chiuderà Moodyman, che è uno dei nomi di punta dell'house mondiale, che viene da Detroit per questa serata alla Prima Estate. Il sabato sera è un tributo a un gigante degli anni 80, Grace Jones, un'icona della dance anni 80. Con lei ci sarà Sara Mautone, DJ toscana, e a chiudere la serata Tony Humphries, che ci riporterà un po' al clima dello Studio 54 di New York, anche lui un grande nome dell'house mondiale. Chiudiamo domenica 29 con un headliner italiano, finalmente Lucio Corsi, personaggio dell'anno. Prima di lui Peter Cut Recording Co. dall'India, e prima ancora il Mago del Gelato. Quindi insomma, grossi nomi internazionali e non, e bella musica da ascoltare con il profumo del mare nelle narici. Che non è male. Ecco, appunto, oltre a questa ottima lineup che adesso ci hai raccontato, con questi nomi grossi, non esageratamente grossi, forse ancora più interessanti perché magari molti non li conoscono, no? Ecco, come vengono scelti, come è stata scelta, costruita questa lineup? Guarda, noi siamo forse gli ultimi che hanno ancora la presunzione di voler costruire una lineup incentrata sulla qualità, quindi che siano artisti conosciuti che il pubblico corre a riascoltare con piacere, o che siano artisti da scoprire. Noi vorremmo con gli anni guadagnarci la fiducia del pubblico, dare consapevolezza al pubblico che le cose che vengono ad ascoltare oggi alla Prima Estate saranno i grandi gruppi di domani, oppure comunque sia sono cose che meritano tutta l'attenzione e l'ascolto. Quindi puntiamo ovviamente una fascia anagrafica di pubblico che è giovane, ma non giovanissima, ecco, non strizziamo l'occhio al pubblico under 20, strizziamo l'occhio al pubblico un pochino più adulto. Non ci affidiamo a un genere particolare, ma comunque sia ricerchiamo una proposta di qualità, quella sempre. Siamo molto, molto attenti nelle selezioni. Ecco, poi dicevamo che il palco è vicino al mare, cioè c'è anche questo bonus che c'ha la prima estate. Ti chiedo alcune cose magari più tecniche, come raggiungere, come arrivare comodamente al Lido di Camaiore, e considerando che sono due weekend lunghi, se uno vuole goderseli a pieno c'è possibilità di alloggi, cosa consigliate? Allora, al Lido di Camaiore si può arrivare in treno, diciamo che per gli spettatori che abitano vicino alla costa, quindi che sia dalla Liguria o dal Lazio, si può prendere il treno direttamente e arrivare al Lido di Camaiore o a Viareggio, che comunque sia a 5 minuti dal parco. Per gli altri, diciamo, si può fare cambio a Firenze e prendere quel treno e arrivare sempre qua. Da Firenze partono anche due pullman, due bus al giorno, in collaborazione con autolinee toscane, che faranno andate e ritorno in giornata, quindi uno può prendere l'autobus da Firenze e tornare con lo stesso autobus dopo il concerto, oppure altrimenti si può arrivare ovviamente in macchina. Quello che consiglio comunque sia è mollare l'auto in hotel, ce ne sono tantissimi qui di tutte le fasce, oltre a tantissimi Airbnb, quindi veramente per ogni tasca si può trovare un hotel adeguato. Consiglio è mollate la macchina in hotel, fatevi una passeggiata a lungomare e poi attraversate letteralmente la strada per entrare nel parco Musso domani e godervi questa serata di musica. Tra l'altro noi avremo anche altre attività oltre ai concerti durante la giornata. Una interessantissima sarà al mattino tra le 11 e le 13 sul rooftop di una hotel, dove Massimo Coppola, leggendario presentatore di Brand New, no? su MTV, condurrà questo format che chiamiamo Hangover, in cui si parlerà della serata prima, della serata che stiamo invece per affrontare. Ci saranno un sacco di ospiti dell'industria musicale che verranno a parlare, a farci una fotografia di quella che è l'industria musicale di oggi, e ci saranno anche gli artisti del festival che verranno a farci intervistare da Massimo, e tutto gratuitamente, tutto per gli spettatori del festival. Ci saranno anche altre iniziative. Abbiamo come partner quest'anno Santa Cristina del gruppo Antinori, che farà degustazioni di vino negli stabilimenti balneari vicino al festival. Santeria, lo storico locale milanese, ha un suo stabilimento balneare in Versilia, a pochi passi dal Parco Buzzola domani, e tutti i giorni organizzerà DJ set in spiaggia. Quindi insomma tutte queste cose poi le troverete sul sito. Ci sono anche attività che si possono fare durante il resto della giornata in preparazione poi al gran finale dentro il parco. Insomma, un doppio weekend veramente intenso e molto interessante. Io ti ringrazio infinitamente per questa chiacchierata e allora tutte le informazioni che non siamo riusciti a dare li trovate sulla primaestate.it con tutta la lineup, tutto quello che vi serve sapere. Ti chiedo, per salutarci, se vuoi scegliere una canzone di una band della lineup per darci appuntamento alla prima estate. Ma guarda, io andrei con i TV on the Radio, ti suggerirei Happy Idiot, che è una canzone che mi piace molto, dei TV on the Radio, può essere una buona chiusura. Perfetto, allora ci ascoltiamo i TV on the Radio, appuntamento alla prima estate, già da questo weekend, dal 20 giugno, e grazie mille Enrico e in bocca al lupo per tutto quanto. Grazie a te, ci vediamo la prima estate.